Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Sponte in regia e cronaca a tambur battente in questo sabato, sportivamente parlando, da Circoletto Rosso, con l'Italia del rugby che fa una figura barbina al Flaminio, chiudendo non solo col cucchiaio di legno preso in testa il Sei Nazioni, ma soprattutto con una figuraccia, perché 58 con la Francia è a tutti gli effetti una figuraccia. Mentre a Sanremo, nel campionato del mondo di primavera, incoroniamo, io credo, un nuovo campione. E da qui partiamo, proprio dal ciclismo, e da Mark Cavendish, la pallottola dell'isola di Man, che vince una delle corse più belle del mondo. Pier Augusto Stasi da Sanremo, buongiorno. Sì, ciao Carlo. Dunque, volata vincente di questo Cavendish, volata atipica dopo una corsa scivolata via su ritmi molto elevati e con le famose poggio e cipressa che non hanno fatto la differenza per nulla. Ma sai, una volata tipica, perché in realtà la Sanremo è una corsa tipica, perché è una gara di 300 km, a tutti gli effetti la gara più lunga al mondo, con diverse salite non impossibili ma che ti spaccano le gambe, quindi chiunque arrivi a disputare una volata deve essere un velocista, ma soprattutto deve essere un grande corridore, perché non è facile fare una volata dopo 300 km. Mark Cavendish, che era la sua prima Sanremo, ha preso subito le misure, e che misure, perché era rimasto un attimo imbottigliato alle spalle di Hasler, il tedesco, che si era lanciato proprio negli ultimi 250 metri e ha fatto la differenza con un colpo di reni, ed è uno dei più giovani vincitori della Sanremo. 23 anni, britannico dell'isola di Man. Non compiuti, 23 anni non compiuti, perché le compirà il 21 di maggio, quindi è proprio un giovanissimo. E pensate, a solo 22 anni, quella di quest'anno è la quinta vittoria stagionale, la 35esima in carriera. 35esima, ho sbagliato di due, per difetto, però c'è tempo e vedrete che questo il timbro 35 lo mette presto. Pier Augusto, nel servizio che avete sentito stamattina, Pier Augusto Stasi diceva: può vincere Petacchi, può vincere Rebellin, magari dato in grande forma, può vincere Pozzato, di sicuro vince un grande corridore. Questo è un grande corridore, questo Cavendish. L'anno scorso, ricordiamo, due tappe al Giro d'Italia, poker al Tour de France, e adesso nel suo futuro cosa vedi? Sì, intanto la sua nazionale, che è quella britannica, che l'ha scelto a tutti gli effetti come volto del nuovo ciclismo anglosassone, a tutti gli effetti diventerà molto presto, secondo me, anche baronetto e veramente simbolo del ciclismo, tanto è vero che Londra, per dire, vuole organizzare i mondiali, rivuole il Tour de France, cioè c'è una mania ciclistica in atto. Dovrà partecipare mercoledì ai campionati del mondo, quindi sul futuro di Cavendish intanto è vincere qualche titolo mondiale anche su pista, perché è un gatto, come dicono i corridori in gergo. E poi il prossimo anno c'è intanto un mondiale in Australia che si addice ai corridori veloci, quindi tra un anno potrebbe essere anche campione del mondo assoluto su strada. E poi ci sono tante volate al Giro, al Tour. È un corridore che può solo migliorare, perché i talenti purissimi possono vincere con tale facilità e a questa età. Tra virgolette, l'unico pericolo è dato da se stesso, perché abbiamo davanti a noi e davanti ai nostri occhi tanti giovani veramente autentici prodigi che si sono persi. Perché? Perché si sono adagiati sugli allori, perché la gloria e i soldi possono toglierti la fame di vittoria. Un corridore su tutti, che è stato secondo me il grande battuto di oggi, perché era uno degli uomini più attesi, è Tom Bonen, che certo, è veramente un talento, è arrivato quindicesimo, è stato campione del mondo, però lui è uno di quelli che fa fatica a mantenere il suo livello appunto, certo, elevato. Quindi il pericolo di Mark Cavendish è dato solo da Mark Cavendish stesso, ma se lui riuscirà a mantenersi sereno, spensierato, spregiudicato, perché lui tra l'altro è veramente pazzo come un cavallo, è il velocista vecchia maniera, non sì, è sì, né Bennati né Petacchi, che sono mansueti e tranquilli, lui è puro sangue e anche un pochino sa parlare anche piuttosto bene l'italiano, perché vive ormai da anni a Quarrata, provincia di Pistoia, ha imparato ad apprezzare la nostra cucina, ama soprattutto i nostri vini, e non vado oltre perché siamo ancora in una fascia fascia protetta. Senti, per Augusto, per chiudere, poi naturalmente sul ciclismo torniamo, perché dopo le 17.30 abbiamo un appuntamento importante, oltre che con Pieraugusto Stagi, con un ospite che stiamo aspettando e che non vi dico chi è naturalmente per non togliervi la sorpresa. Però in un minuto, Petacchi, Bennati, lo stesso Rebellin, lo stesso Pozzato, delusioni di questa corsa? Ma sai, delusioni, Rebellini e Scarponi hanno fatto quello che dovevano fare, sono stati bravi, però più di quello non potevano fare, erano sempre sul filo dei 50 all'ora ed è dura. Pozzato forse ha usato un po' poco, sì. La sua squadra ha mandato in fuga Ignatiev e poi ha fatto uno scatto molto telefonato e poco convincente. Sì. Petacchi, ricordiamoci che ha 35 anni, esattamente... Credo che ci sia un passaggio di testimone a livello mondiale, cioè Petacchi si dovrà accontentare, credo, da oggi a vincere le gare sotto i 200 km, invece Mark Cavendish oggi ha dimostrato di poter essere un corridore di razza che può vincere le grandi classiche, quindi anche quelle di 250 e 300. Certo. Daniele Bennati è un'altra nota dolente perché non è mai riuscito a essere meglio di Petacchi e ho paura che abbia perso definitivamente il treno. Grazie per Augusto Stagi, a più tardi l'appuntamento dopo le 17.30, ve lo ricordo, quando torneremo a parlare di ciclismo. La cronaca di oggi è anche calcio, naturalmente calcio di Serie B, che è in campo per il secondo tempo della 32esima giornata. In questo momento i parziali sono questi: Bari 1 Cittadella 0, rigore di Barreto; a Trieste Parma 1 Triestina 0, gol di Budel; Livorno che conduce 2-0 sull'Ancona, il Sassuolo in vantaggio 2-1 sull'Empoli in un momento davvero nerissimo. Vantaggio esterno anche per l'Albino Leffe, 2-1 ad Ascoli; Mantova Rimini 0-0, Modena 2, Vicenza 0 con doppietta di Bruno; Piacenza 1, Frosinone 0, Avellino 1, Pisa 0. Vi ricordo tutti i parziali naturalmente, e adesso è il momento di parlare di rugby e di figuracce. Peroni illumina la tua voglia di rugby. Vi presenta Palla Ovale. Quando si chiude una manifestazione, quando si chiude un qualunque torneo, un campionato, quando si chiude un Sei Nazioni e la affermazione più ricorrente è «meno male che è finito», vuol dire che c'è qualcosa che non va. Italia batte Francia al Flaminio 58 in una partita mai esistita, 25-3 all'intervallo, e l'Italia più depressa che io ricordi. Giacomo Bagnasco da Roma, buonasera. Pomeriggio Carlo, sì, meno male che è finita, l'ha detto direttamente il presidente della Federazione Italiana Giancarlo Dondi, e questo la racconta già un po' tutta. 58, il peggior punteggio subito dall'Italia quest'anno nel Sei Nazioni, il cucchiaio di legno, 5 sconfitte, solo in un caso una sconfitta di misura contro il Galles, 2 mete fatte, 21 mete subite. E questi sono tutti i dati di quella che sostanzialmente è una disfatta. Anche oggi si è vista una squadra disorientata, confusa, nervosa, con poche idee e comunque anche con parecchi errori di manualità, errori di gestione del gioco. Probabilmente anche qui si paga, tra l'altro, senza naturalmente voler addossare le colpe a un singolo, anche la scelta di McLean, mediano di apertura. Questo giocatore è molto giovane e in questo ruolo praticamente non ha mai giocato, né in Australia, la nazione da cui arriva, né in Italia. Ma non è questo l'aspetto più rilevante. Ricordiamo la Francia che arrivava a sua volta da una figuraccia, dall'umiliazione subita in Inghilterra dove ha perso 34-10 una settimana fa. Questa Francia si è ritrovata, sicuramente una squadra superiore all'Italia anche dal punto di vista delle individualità, sotto, non c'è niente da dire, però sono state concesse mete molto facili ai francesi, che naturalmente ne hanno approfittato. L'unica meta azzurra è stata il frutto di una bella azione, onore ad Andrea Marcato, che probabilmente è stato uno dei migliori, con un calcio a seguire su per se stesso, sì. Ha recuperato la palla, passato a Mauro Bergamasco, la meta è stata del capitano Parisse, sussulto d'orgoglio dei tre meno peggio di questa Italia, in generale nel corso del torneo. Anche anche se Parisse probabilmente, forse per una forma di frustrazione da alcune partite a questa parte, tende a giocare un po' troppo da solo, comunque è sicuramente uno dei migliori giocatori italiani. Carlo, Giacomo, se posso raccontare una cosa che non c'entra con il rugby giocato, però vale la pena di segnalarla se non la si è capita anche direttamente dagli schermi televisivi. Al 30° del primo tempo uno spettatore ha lanciato una bottiglietta in campo, forse all'indirizzo dell'arbitro, non lo ha colpito, è stato immediatamente isolato da tutti gli altri spettatori che hanno fatto il vuoto intorno a lui urlando fuori fuori, sono arrivati due inservienti, lo hanno portato fuori. E questo, insomma, in un pomeriggio abbastanza desolante, è stato un buon segno, un segno di civiltà da parte del pubblico italiano e del pubblico del rugby. Certo, che no, cosa che non sorprende più di tanto. Però quel Parisse che gioca da solo, ed è vero, che gioca da solo da qualche partita, è indice di una squadra slegata, di una squadra in cui non vedo perché non si debba mettere in discussione l'allenatore, che è una carissima persona, un uomo di carisma, probabilmente anche un grande allenatore, però non è cosa per noi. Mi risulta che il presidente Dondi abbia detto in discussione tutti, non Mallet. Mi domando perché. Sì, in effetti è così, e in effetti è giusto pensare che il commissario tecnico sia il maggior responsabile di una situazione del genere, che è sicuramente una situazione negativa. Mallet oggi ha detto che la partita con la Francia è stata una brutta partita, non ha accampato scuse sotto questo punto di vista, ha semplicemente ricordato un paio di episodi sfavorevoli. Invece è una domanda più complessiva di un collega che ha detto, in sostanza, l'anno scorso l'Italia ha giocato un Sei Nazioni che si poteva considerare positivo con Mallet commissario tecnico, quest'anno un Sei Nazioni pessimo con lo stesso commissario tecnico, come lo si spiega? Mallet ha ricordato tra l'altro questa regola che è cambiata, che effettivamente impedisce in sostanza all'Italia di adoperare quella che era una delle sue armi migliori, la rolling ball. È una spiegazione che naturalmente non è campata per aria, però da sola non può spiegare le difficoltà degli azzurri. Nello stesso tempo un grande CT del passato come George Costa recentemente ha ricordato una verità semplice, ha detto che purtroppo indietro nello sport non si guarda, bisogna guardare avanti, adeguarsi anche alle regole nel migliore modo possibile. Certo, chiaro. Sentiamo anche un ascoltatore, Amedeo da Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. E io volevo solo fare una domanda. Io capisco le difficoltà che ha trovato male, però non capisco come mai un presidente possa pagare contemporaneamente tre allenatori, Massimo Mazzoletti, Johnston e John Kirwan. Se qualcuno mi dà una risposta, dov'è il problema dell'Italia? Grazie, molto gentili. grazie a lei, Amedeo. Beh, insomma, sono tutte discussioni che ci stanno, queste, Giacomo. Sì, beh, gli allenatori l'Italia ultimamente li ha cambiati abbastanza spesso. L'ascoltatore non ha citato Berbizier, perché in questo caso Berbizier, che è sostanzialmente quello che ha ottenuto i migliori risultati negli ultimi anni a livello di Sei Nazioni come CT dell'Italia, se n'è andato di propria spontanea volontà. E sicuramente ci sono delle difficoltà che vanno al di là della nazionale, coinvolgono il movimento del rugby italiano in generale. Certo, è difficile pensare di aspettarsi delle cure miracolose, e sotto questo punto di vista potrebbe non esserlo neanche la novità della Celtic League di cui tanto abbiamo parlato, ma certo qualcosa bisogna cambiare. Ecco, di qui a dire però che tutto dipende dal fatto che i giocatori italiani non sono abituati a giocare a certi ritmi, eccetera, ne passa, anche perché ormai la maggioranza dei giocatori giocano all'estero, ma poi era così anche prima, era così anche quando comunque si vinceva in Scozia, si vinceva con il Galles, si portava a casa qualche partita, si facevano soprattutto delle figure migliori, perché insomma siamo arrivati ormai a non sopportare più, ma come è giusto che sia, le onorevoli sconfitte, perché ne avevamo le tasche piene. Adesso non solo non siamo arrivati alle vittorie, ma siamo tornati decisamente indietro. Quindi, secondo me, visto che parliamo di sport, è giusto mettere in discussione un allenatore che sta facendo male, è giusto anche andare al Flaminio e davanti a un 58 far scendere dalle gradinate dei sacrosanti fischi, perché ci sta, perché ci sta, tutto questo ci sta, e non esiste il vogliamoci bene, bravi ragazzi ad ogni costo e ogni volta, perché a questo punto siamo di fronte ad una squadra che sta tornando indietro e comincio a condividere chi, e sono tanti, dice o scrive: beh, ma cosa ci stiamo a fare nel Sei Nazioni? È chiaro che uscendo di lì sarebbe una tripla sconfitta, perché di rugby non si parlerebbe più per un po'. Tutti argomenti da affrontare, e lo faremo senz'altro nel corso delle prossime settimane. Intanto ringrazio Giacomo Bagnasco dal Flaminio. Chiudo la pagina di rugby facendovi sentire anche una voce azzurra, che è quella, prima di passare alla pallavolo, una voce azzurra che è quella di Giulio Rubini, raccolta da Dario Ricci negli spogliatoi del Flaminio. Giulio Rubini, 58, Giulio, passivo pesantissimo, e un'Italia con tanti interrogativi che chiude questo Sei Nazioni. Le tue sensazioni? Sì, il punteggio è molto, diciamo, è un passivo molto ampio, anche più di quanto ci meritavamo, perché comunque è vero che forse non abbiamo fatto la miglior partita del Sei Nazioni, ma è anche vero che la maggior parte delle loro mete è arrivata su degli errori che si potevano evitare, senza, diciamo, i quali sicuramente il punteggio era più vicino, potevamo recuperare sicuramente. Ci sono sicuramente, questa partita ci ha posto molti quesiti rispetto a quella con il Galles, si sono scoperti dei problemi in più, ma come abbiamo sempre fatto, si continua a lavorare per migliorare. Il presidente Dondi ha detto, Mallet è confermato, tutto il resto è in discussione. È un'Italia che si ritrova all'anno zero del proprio rugby dopo un Sei Nazioni così deludente, secondo te? No, non penso proprio. L'Italia ha fatto dei grandi progressi, l'abbiamo visto la settimana scorsa, purtroppo questa partita è andata così, ma non si può dire che comunque è tornata all'anno zero, perché i progressi che abbiamo fatto sono rimasti, dobbiamo diventare più cinici, dobbiamo, diciamo, migliorare su alcuni punti di vista del gioco, ma non ci ricordiamo che abbiamo giocato contro una delle nazioni più forti al mondo, quindi anche merito a loro. Bene, un attimo di respiro adesso dalla cronaca per aprire la finestra sul pallavolo come ogni sabato. Sono le 17:26, quindi siamo un minuto in ritardo sulla finestra di Andrea Zorzi. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Buon pomeriggio, sono Andrea Zorzi, ben ritrovati. Oggi parleremo dei playoff del volley, di libri di sport, di Finlandia, di Grecia e del grande Torino. In questo viaggio, solo apparentemente scombinato, ci farà compagnia Mauro Berruto, che è il nostro ospite al telefono, che vi presento con questo breve profilo. Mario Berruto è torinese, 40 anni, allenatore professionista di pallavolo con una laurea in filosofia. Di se stesso scrive: amo la mia famiglia, i miei due favolosi bambini, Francesco e Beatrice. Mi piace leggere, scrivere e sognare. Non ero un buon pallavolista, ma abbastanza intelligente da capire che la mia strada era l'allenamento. Ho iniziato ad allenare nel 1991 come assistente, ma la mia carriera come primo allenatore è cominciata nel 98. Sono molto fiero di tutti i passi della mia carriera, compiuti grazie a lavoro e perseveranza. Nel 2003 Berruto entrò a far parte dello staff della nazionale italiana di volley, conquistando l'oro nell'Europeo di quell'anno e un argento nelle Olimpiadi di Atene del 2004. Poi ha guidato la Lube Banca Marche Macerata e la nazionale finlandese, con la quale ha raggiunto il quarto posto agli Europei del 2007. Quell'impresa, la migliore prestazione di sempre della nazionale nordica in una competizione internazionale, gli ha valso il titolo di Coach of the Year 2007 in Finlandia. Dopo aver allenato un club anche in Grecia, quest'anno è tornato in Italia per allenare la squadra di Montichiari. Ha scritto due libri, Andiamo a Veracruz con 4H nel 2005 e Indipendente Sporting nel 2007. Nel primo romanzo si legge: i bambini conoscono Gesù e Roberto Baggio, e se chiedi loro la differenza, ti rispondono che Gesù non avrebbe mai sbagliato un rigore in una finale del campionato del mondo. Nel secondo libro, Mauro Berruto racconta di Ernesto Che Guevara nelle vesti di allenatore visionario, geniale, probabilmente un po' pazzo, che insegna il calcio a giocatori scarsissimi utilizzando il modulo del grande Torino. E ora Mauro Berruto, affascinato dalle esperienze al limite e dalla sana pazzia, allena una squadra di uomini normali a Montichiari e un'altra di uomini speciali che vivono nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere. Ciao Mauro, benvenuto a Radio 24. Ciao Andrea, grazie a voi. Hai appena finito l'ultimo allenamento con gli uomini speciali, com'è andata? È andata molto bene, ci sono stati dei progressi veramente inaspettati e presto faremo con questi ragazzi anche un piccolo quadrangolare a conclusione della nostra attività. Cosa ti porti via di questa esperienza? Ma mi porto via una cosa importante, che è quella che il concetto di normalità va un po' rivisto, secondo me, e soprattutto a fronte di un bombardamento quotidiano di messaggi che ci dicono che tutto quello che è diverso è pericoloso e di quello che è diverso bisogna diffidare, credo che il messaggio sia invece opposto, e cioè che da quello che è diverso si può imparare se lo si vuole leggere con certi occhi. Sarà utile anche per la tua esperienza di allenatore di Montichiari? Guarda, io per fare allenatore ho fatto un percorso talmente strano che tutto quello che ho fatto penso che mi sia stato utile a livello personale, a livello professionale. Quindi la risposta è sicuramente sì, perché credo che l'esperienza sia proprio quella. L'esperienza non è tanto quello che ti succede, ma è quello che tu fai con le cose che ti succedono. Quindi da questo punto di vista credo proprio di sì. Torniamo per un istante agli uomini speciali che hai allenato. Hai chiesto a loro di tenere un diario. Hai idea di cosa stanno scrivendo? Sì, ne ho idea, perché questo diario viene compilato e mi viene fatto leggere prima e dopo ogni allenamento. Ed è bello anche da questo punto di vista guardare le cose con occhi un po' diversi, perché leggere le emozioni, le sensazioni, le aspettative, per esempio, che questi ragazzi hanno prima di venire all'allenamento, certe volte mi fa pensare, perché come tu ben sai, Andrea, alleno atleti professionisti che non sempre riescono ovviamente ad arrivare al palazzetto, ad arrivare all'allenamento con quel livello di motivazione, con quel livello di emozioni. E anche questo è bello, ogni tanto sentirlo, vederlo, leggerlo è importante, da motivazione anche dell'allenatore. Alleni atleti professionisti in giro per l'Europa, lo hai fatto in Finlandia, lo hai fatto in Grecia. Dimmi un po' com'è la pallavolo italiana vista da fuori. Io credo che anche questo sia stato per me quantomeno arricchente. Allenare in Finlandia, allenare in Grecia, immaginerai, sono due cose veramente diverse, perché i paesi sono diversi, le persone sono diverse. E tutto quello che, come dire, è agli estremi, in questo caso se vogliamo anche geograficamente, no? Dalla Finlandia alla Grecia, ti permette poi di gestire con più sicurezza e con più esperienza tutto quello che sta in mezzo. La pallavolo italiana è stata, è attualmente e rimane una pallavolo di profilo altissimo, sia per ciò che riguarda la sua espressione di club, sia per ciò che riguarda la sua nazionale. E quindi sono state due esperienze molto diverse, quella finlandese e quella greca. Quella finlandese prosegue, però anche da questo punto di vista sarebbe molto bello portare il meglio della Finlandia a sud e il meglio della Grecia a nord e riuscire a trovare un modello che sia più completo. Grazie mille Mauro, in bocca grazie al lupo. A voi. Grazie. Grazie Mauro Berruto, in bocca al lupo per i suoi playoff che iniziano il 29 di marzo. Io adesso vi saluto come sempre, noi ci risentiamo sabato prossimo su Radio 24 alle 17.25. Diversi messaggi ancora relativi al rugby. L'Inghilterra sta battendo 18-3 la Scozia. Sull'argomento rugby torneremo poi domani sera. Esaurita la cronaca, adesso vorrei passare al commento. Voglio tornare al ciclismo, alla Milano-Sanremo che abbiamo appena visto, e cominciare a dare un'occhiata alla stagione intera, perché di ciclismo abbiamo obiettivamente molta voglia. È tornato con noi da Sanremo Piero Augusto Staggi, ma soprattutto l'ospite che avevo annunciato prima, adesso svelo il mistero, ora che è in linea, ed è Damiano Cunego. Ciao Damiano, grazie. Buonasera a tutti, ciao. Grazie per essere ciao, con noi. Ciao. Come stai? Piacere tutto mio. No, tutto bene, grazie, dai. Tutto bene. Tutto a posto. Sì, senti, sì, tutto bene. Mark Cavendish, possiamo dire, saremo in corona i campioni. È un campione secondo te? Sì, io non avevo dubbio che oggi poteva fare una grande corsa, ma lo ha già dimostrato in tante occasioni, in tante corse, e oggi sì, ci si aspettava magari qualche attacco da distante di qualcuno sull'ultima salita così, ma oramai la Milano-Sanremo è una corsa dove bene o male, se non succede qualcosa di straordinario, vince un velocista e al momento io credo che lui sia il più forte dei velocisti, senza nulla togliere agli altri. Pieragusto Stagi, come immagini la stagione di Damiano Cunego? Ma intanto non voglio immaginarla, voglio vederla, mi immagino solo che si sta preparando bene e soprattutto sta lavorando in serenità, che è la cosa che più conta. Damiano è uno che sa accumulare lavoro e sa creare le giuste motivazioni dentro di sé. Credo che debba dimostrare poco perché è un talento purissimo, ma ha voglia di tornare a vincere e dimostrare anche che sa fare delle belle cose nelle grandi corse a tappe e non solo nelle corse d'un giorno, dove è sicuramente uno dei più bravi in assoluto. E io mi auguro di vedere il vero Damiano, e sono sicuro di vederlo già sulle classiche delle Ardenne, in particolare alla Liegi, che è una corsa che è sua, è fatta per vincerla, perché uno che vince tre giri di Lombardia non può non vincere, certo, almeno una volta una Liegi Bastogliegi. E Damiano credo che quest'anno lo invito solo a toccare ferro, che basta, e poi che vada tutto bene, perché poi bisogna che vada tutto bene, perché oltre a essere bravi e forti bisogna avere anche quel pizzico di fortuna, sì. Ti deve andare giusto tutto, perché basta un niente per perdere veramente il treno. Ma credo che sia, credo che proprio... tutto va per il verso giusto, Damiano sulle Ardenne ci farà divertire. È lì la bandierina, Damiano, la prima bandierina stagionale? Sì, sì. C'è Pierogusto lì. Sì, è collegato. Ciao, con Pierogusto. Ciao, Damiano. Mi sente. Ciao. Ma sì, io credo che dopo una buona stagione come quella dell'anno scorso, quest'anno bisogna ripetersi. E appunto i primi obiettivi sono appunto queste classiche del nord, dove io pongo sempre l'obiettivo di riuscire a vincerne una. Ovviamente la Liegi è anche la più bella, la più ambita da tutti. Staremo un po' a vedere. Mi sto preparando nei migliori di modi, sono sereno, sono tranquillo e poi staremo un po' a vedere cosa si può fare. Finite le classiche, dopo c'è il Giro d'Italia che quest'anno è importante, il centenario, ci sono tutti i migliori e anch'io parteciperò, ma al momento, come tutti sanno, i favori del pronostico sono Torbasso e Armstrong. Va bene così, sono i personaggi del momento, lascio più che volentieri la copertina a loro il peso, e tu con ricoperto sei più tranquillo, è meglio, sì. Esatto. E tu con ricoperto, ma non vai per partecipare al Giro d'Italia? Si partecipa ovviamente con lo spirito giusto e la voglia di fare, ovviamente, ecco. Però è meglio rimanere un po' nascosti per il momento, lasciare le attenzioni agli altri, perché assicuro. Comunque manca ancora il giro 2 mesi, c'è tante cose da fare prima. Sicuro, nella pancia del gruppo, caro Damiano. Senti, ma cosa danno, cosa possono dare Basso e Armstrong, personaggi da copertina, al ciclismo in questo momento? Beh, credo che l'unico al momento Armstrong sia quello che richiama veramente tanta attenzione, richiama i giornali a tutto il mondo, televisioni a tutto il mondo, quindi credo che il suo ritorno alla fine sia abbastanza importante, perché il ciclismo sta vivendo un po' un periodo così e uno come lui può far solo che bene. Basso invece è una scommessa di tanti e 2 anni di squalifica, rientra ovviamente, fa un po' il clamore e tutti lo aspettano al varco, staremo a vedere. Pieragusto, secondo te cosa possono fare invece Basso e Armstrong? Di sicuro faranno fatica, perché avranno gli occhi di tutti, non solo dei media di tutto il mondo, ma soprattutto dei loro antagonisti, a cominciare da Damiano, che giustamente sornione, intelligente, scaltro qual è, dice andate avanti a voi che a me viene da ridere, certo. Però il divertimento vero è quello di poi di mettere il bastone tra le ruote, comunque a vendere cara la pelle, dice siete voi i più forti, se comunque voi i fari di questo Giro d'Italia del centenario, bene, ben venga, e noi ci divertiremo. Andate avanti e pedalate, poi tanto bisogna salire in bicicletta e andare più forti, insomma, vediamo se ci riescono. Damiano, per chiudere, su di te ti sei detto tante volte, può essere il numero uno al mondo nelle corse di un giorno, ha in testa però le corse a tappe. Abbiamo risolto questo dilemma? Non è ancora ben chiaro. Io ho un'idea mia personale, sono che va bene un po' dappertutto, soprattutto le classiche, quando le corse cominciano a superare un certo chilometraggio, mi riferisco quando ci avviciniamo ai 250 chilometri, sono in palla il mio modo di correre, però anche nelle gare a tappe penso di aver dimostrato qualcosa in passato. Mi piacerebbe anche adesso riuscire, nonostante le difficoltà, riuscire a fare qualcosa di veramente buono. È ovvio che è un po' più difficile, perché al momento uno come Armstrong che viene qui, si prepara, sarà l'uomo da battere sulle salite, è difficile, però è bello anche così, perché nulla è scontato e adesso sarà sulla strada che si vede un po' le carte che ci sono sul tavolo. Insomma, le corse a tappe ancora non te le sei tolte dalla testa. Beh, bisogna fare, almeno sei un corridore deve, sì, certo, del certo mio livello, così una gara a tappe l'anno va fatta. Ovviamente per gli italiani il Giro d'Italia è sempre il Giro d'Italia piuttosto che il Tour. Staremo a vedere, insomma, dai. Bocca al lupo, Damiano, grazie. Ci sentiamo dalla sua, dal nord. Ci sentiamo dal nord con Damiano Cunego, ma anche con Pier Augusto Stasi, che ovviamente, come ben sapete, i nostri occhi e la nostra voce sulle strade del ciclismo. Ciao Piero, alla prossima. Grazie Carlo, ciao. Alla prossima con Pier Augusto Stagi. Dunque, vi aggiorno intanto sui risultati in divenire, a cominciare dal rugby con la Scozia, che sta perdendo ma sta facendo una figura nemmeno paragonabile a quella dell'Italia. 18-9 per l'Inghilterra a Twickenham, ma Scozia che resta lì in partita a testa alta. Poi vi aggiorno sui risultati, qui siamo vicini al 90esimo della 32esima di Serie B. Il Bari capolista sta vincendo 2-0 con il Cittadella, dopo Barreto su rigore ha segnato Kutuzov al 25esimo della ripresa. Il Parma ha chiuso la partita di Trieste, Budel al secondo minuto del primo tempo per il vantaggio del Parma, nella ripresa invece vantaggiato e Mariga per questo 3-0 ancora parziale. Attenzione, perché l'Ancona ha ribaltato tutto a Livorno, ora sta vincendo 3-2 dopo Loviso e Cellerino hanno segnato doppietta di Mastro Nunzio. Qui sì, tutto nella ripresa e soddimo per l'Ancona che rimonta e sorpassa, così come rimonta e sorpassa anche l'Empoli che prima avevo dato per squadra in crisi nera, mentre la doppietta di Pozzi dopo il gol di Buscia consente all'Empoli condurre 3-2 con il Sassuolo. Pareggia l'Ascoli con l'Albino Leffe, doppietta di Cani, mentre Laner e Cellini hanno segnato per i bergamaschi. Il Mantova vince 1-0 con il Rimini, con gol di Franchini, ed è un gol molto, molto pesante in chiave salvezza. Tripletta di Bruno nel 3-0 del Modena sul Vicenza, 3-0 anche del Piacenza sul Frosinone, Ferraro Volpato e Avogadri gli autori dei gol. Doppietta di Ciotola nel 2-0 ancora parziale dell'Avellino sul Pisa. Tanti gol, risultati molto interessanti questi della 32esima di B. Vorrei tornare per un attimo al rugby, perché come dicevo c'è arrivata una voce importante da Roma, quella del capitano Sergio Parisse. Allora vorrei sentire cosa ha detto a Dario Ricci. È inutile nasconderlo, non fa mai piacere perdere così, prendere 50 punti a casa nostra, però sì, la partita non è andata bene fin dall'inizio, abbiamo lasciato la Francia giocare e segnare tantissime mete. Niente, sicuramente vedremo la partita magari a giugno, quando ci ritroveremo per la tournée, vedremo dove ci siamo sbagliati. Da dove ripartire, Sergio, dopo un 6 nazioni per molti aspetti così deludente? Ma della stessa unità della squadra, dello stesso gruppo, perché alla fine i giocatori sono questi, e con voglia di fare una buona tournée, una tournée che sarà veramente molto molto dura e molto impegnativa. Niente, ma penso che per un giocatore di rugby non ci sia più bella cosa di giocare contro le squadre più forti al mondo, e sicuramente in questa tournée andremo a affrontare l'Australia due volte e Nuova Zelanda, e quindi sarà sicuramente partite molto molto difficili, e speriamo di giocare un rugby molto più bello di quello che abbiamo dimostrato in questo 6 nazioni. Da capitano, qual è il rimpianto maggiore dopo questo torneo? Rimpianto no, perché ogni volta che abbiamo finito ogni partita ci potevamo guardare negli occhi tutti, e anche se abbiamo fatto le partite molto, molto brutte come quest'ultima, la squadra ha sempre cercato di dare tutto. È quello che ho detto sempre: la squadra delle volte non gioca bene, la squadra delle volte gioca in maniera abbastanza buona, come ha giocato contro il Galles, però non basta, e lo abbiamo visto, perché alla fine sono sempre sconfitte. Ma la cosa importante è che la squadra dà tutto in campo e cerca di dare sempre il massimo quando indossa la maglia della nazionale, e questo è veramente una cosa importante. Questo è Sergio Parisse, il nostro capitano, ammirevole in campo ma anche nel comportamento, uno dei pochi giocatori di livello internazionale che l'Italia ha. Dunque, adesso per chiudere il programma vi regalo una raffica di voci di vigilia della giornata di Serie A, aspettando ovviamente gli anticipi che culmineranno questa sera in un Roma-Juventus, come dicevo prima, dei cerotti e dei cartellini, viste le formazioni, ma non rimaneggiate di più. La Roma ha fatto la conta, il povero Spalletti ha fatto la conta, ne ha trovati 11 da mandare in campo, con Brighi unico centrocampista, ma lo sapete, Tonetto terzino avanzato a centrocampo, e Felipe, giovane brasiliano, anche lui non centrocampista di ruolo, che addirittura debutta questa sera. Dall'altra parte la Juventus, che ha perso Marchisio ieri per infortunio, Ranieri con la mezza idea di buttare dentro per completare il centrocampo proprio al posto di Marchisio è al posto di Saljamicic, perché il ballottaggio è questo, Giovinco-Saljamicic, un Giovinco che scoppia di salute. Vedremo se Ranieri avrà coraggio sufficiente, ma è il caso, perché anche ieri Coboli Gigli ha detto la penultima chiamata per provare a rimetterci in scia dell'Inter. Però vi regalo una sequenza di voci della vigilia, a cominciare da Napoli-Milan, che chiuderà il programma. Peraltro la partita, per me, l'aspetto forse più interessante di questo turno di campionato. Ancelotti sul momento del Milan. Certamente una trasferta difficile e... per questo dobbiamo stare molto attenti. Certo è che il Milan in questo momento è, diciamo, nelle stesse condizioni, sta ritornando nelle stesse condizioni con cui ha finito la stagione scorsa, quindi condizioni sicuramente più brillanti, una squadra che sta meglio, più serena, e penso che siamo nelle condizioni giuste per affrontare questo tipo di partita. Adesso sentiamo sempre l'allenatore del Milan sugli avversari, cioè sul Napoli di Donadoni. È una squadra che in questo momento, credo, non vede l'ora, l'occasione per trovare il motivo per uscire da una situazione complicata. E quindi quale migliore occasione di magari fare bene in una partita di questo genere? Credo che è abbastanza normale, è evidente che credo che per loro sarà una grande opportunità. È normale che quando cambia un allenatore ci sia una reazione da parte della squadra, una reazione che sicuramente è stata controllata nella partita con la Regina, è una reazione che sicuramente ci sarà diciamo in maniera più intensa nella partita di domani. Una squadra che vuole risalire la classifica, e il fatto che ha cambiato allenatore sarà sicuramente uno stimolo in più, anche perché Donadoni è un allenatore che, diciamo, che ha già avuto esperienze importanti, è un allenatore sul quale la società pone le basi anche per il futuro, e questo i giocatori lo sanno benissimo, quindi credo che anche per questo sarà ancora più importante per loro. Adesso subito Donadoni, avversario sulla partita che aspetta domani con il Milan. Noi dobbiamo essere bravi a toglierci di dosso un po' questi timori, come lei diceva, e essere un po' più spregiudicati. Spregiudicati non vuol dire andare avanti così senza ragione, ma vuol dire fare e utilizzare quelle che sono le proprie qualità, rischiando qualcosa in più. E provandoci, consapevoli del fatto che si può anche sbagliare, ma l'errore ci sta e poi dopo ci si riprova di nuovo. Ho detto ai ragazzi che mi piace vedere gente che sbaglia, ma perché ci prova a fare qualcosa, e non mi piace vedere gente che fa solo ed esclusivamente il necessario, perché questo è uno sport dove è bello essere protagonisti. Per chiudere abbiamo anche Giuseppe Mourinho, domani Inter Regina, sentiamo cosa dice. Io ho letto giorno dopo giorno nei vostri giornali tutte le informazioni di allenamento. Voi sapete che abbiamo iniziato la settimana lavorando con Adriano e con Ibra davanti, che dopo abbiamo cambiato per Mancini, Ibra e Balotelli. Senza Stankovic abbiamo lavorato con Jimenez. Voi sapete tutti. Oggi è stato l'unico allenamento dove non abbiamo lavorato organizzazione di gioco e tattica. E per questo è facile di capire il tipo di opzioni che abbiamo. E Adriano non è convocato. Abbiamo Cruz e Crespo con Ibra e Balotelli, più Mancini, più Ubina. Vediamo, però è basico, è facile capire chi dietro giocherà Rivas con Cambiasso, e per questa ragione non abbiamo Cambiasso in centrocampo. E chiudiamo qui il programma. Sono tutti confermati i risultati di Serie B. Bari primo in classifica 60 punti, Parma 58, Livorno 53, Albino F 51, in coda Treviso 27, Avellino 28, Modena 32, Salernitana 33, Cittadella 35. Adesso chiudiamo il programma, ci troviamo domani dalle 17 alle 19 per parlare di quello che vedremo domani pomeriggio sui campi di calcio. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunti in regia. Domani.